ci sentiamo, buonanotte. Cappa, buonanotte, buonanotte. Brecco, brecco, l'amico che mi chiamava poco fa, Sampi, che mi diceva ciao Sampi, ci sì, in ascolto. Ah, ma non c'è andato a portare un ganja, Gianni. Gianni, non c'è andato a portare il cane. Oh, oh, oh, oh, oh. Gianni, attento Gianni. Prova 1, 2, 3, prova, schive di Bobby, mi ricevi, cappa, cappa. Chiamo al comandante della nave che gli attrezzevi. Attento Gianni. Gianni, doppio. Avanti l'amico, avanti. Attento Gianni, doppio rum, cambio. Tu AM o FM? A San Camillo c'ho io. Sì, in AM o in FM. Attento Gianni. Cappa Roger, ti ricevo, ma ti ricevo lontano. E poi da vicino. Giannetto, hai finito a portare il cane? Ti sento male, ti sento lontano. Tu gli hanno la battiglia. Ma sei sul 10 in AM? No, sono sul 20. Gianni, prova a fare un passaggio. Ho già detto un massaggio. Ti sento lontano, lontano ti sento. È a vicina dell'ora. Da dove stai modulando? Da Chiaramonti. Affermativo, gaffa, qui Sosso, tu Chiaramonti, già ti cucchio, però ti sento lontano. È per di bella, E avvicinati allora, se mi senti lontano. No, a volte non capisco cosa mi dici, perché sei lontano. Se magari, quante ne hai? Attenzione, ci ascoltate qua, Luca Pedivella. Cappa Luca Pedivella, qua San Pedro a Sorso, Golfo della Ginara. Da dove stai modulando, Pedivella? Positivo, dai, a parte mia, vicino a Chirivari sono, dai, non so come mi ascolti. Cappa, frate, arriva bene, già va bene, se sei vicino a Chirivani arriva bene, io sono a Sorso. Ciao Pedivella, ma lo zero mi ha passato, No, ancora no, ma è passato ancora. Ma se quasi tende, credo la giubilea devo volare su. Vabbè, non c'è giù. Ok. Bubu, andiamo, ciao ciao. Ehi Claudio, buonasera. Vabbè, binario 2 era binario 1. Arriva la freccia rossa. Ebbè, Claudio. Ciao Pedivella, qui Caldarella, senza bulloni. Lei che ti amico, non so cosa ne fa vedendo, boh, qua non arriva, arriva basso basso, la giunta poi su foglio giornale sotto. Amico di Sorso, lui è Claudio Caldarella, capito? Caffa Pedivella, Claudio Caldarella hai detto, da Chiaramonti mi ha detto che lui è, confermi. Eia, Claudio Caldarella, sì. E si conferma Claudio Gattarella, Gattarella, mi comprendi? Sapè, ma tu sei chi ci piglia Robescio o Robescio piglia te? No, ti ascolto bene, no, ti tiro fuori con le pinzette, ma no, non riesco. Non ti accoppi, ami. Ma ascolta una cosa, ma che pinzette ci trattendi? Tratta la dinaglia. Ehi, se no pigliamo un pappagallo o un canarino e andavamo a stessi. Oh, pappagallo, mi sei cazzato la biscitta la notte. Come ti arrivo io? Benissimo, benissimo, senza segnale. Segnale non ti vedo, radio non ti sento. Gaffa, gaffa, c'ho l'antenna lunga, ho messo una Gain Master, c'ho... Una Gain? Vado con un Alan 68. Anch'io ce l'ho lunga, ma sicuramente gioco diventato vecchio, mi sei incurtata, cambio. Ma lui è lunga, ma si piega ogni tanto. Allora, col vento mi sei tutto mosciato. Tutto a sinistra. Tutto a centro, maestro. Attento per il Vella, ascolti Caldarella. Davanti, certo, forte e chiaro qua. Non so se tu ascolti a me. Forte e chiaro. Ascolto la grande, caro Pedivella. È entrato anche Franco Binario. A posto Gemmo, Rodreno e Pattudo, vamos. Bravo, la Pedivella, Rodreno. Ciao, Fra. Ciao, Lu. Mi ascolti, Fra, sì? Basso, ti sento, a capo, come mai? Te un po' di giornale sotto, ripeti. Ah no, aspetta, c'è un'antenna attaccata, mi sono Santiago 9, per quello. Ah, la tua antenna eri? No, sto scherzando. Sapete bene, invece io come stavo uscendo? Meglio come prima o peggio? Perché l'ho fatto allineare questo apparecchio. Ah, perfetto, fondo scala, sì. No, la radio mi interessa. Oh, va bene, dai, siamo vicini, ma si è agganciato. È agganciato, perché non vorrei che mi abbiano tirato su il radio, perché io li avevo abbassati, capito? Per uscire meglio in radio. Siccome vedo che sta spingendo un po' di più l'Alfa Lima, non vorrei che vada in saturazione. Allora, non vai in saturazione, però è compressa, vero Claudio? Lui, io sono distante, lo sento una canonata. 9 più 10, radio Super 5, bellissima come la tua, bella amplificata, bella forte. Ma tieni conto che io sono molto lontano da voi. Sicuramente mi ha tirato su un po' i watt, capito? Me li ha riportati ai parametri originali. Quindi un po' sicuramente me la mangia la radio, perché praticamente me l'ha messa come era prima, dai. Io l'avevo passata per migliorare, però... No, Fra, qua a lunga distanza sei perfetto. Poi chiaramente, come ti ha detto Luca, a distanza vicina magari sei un po' più compresso, però ti posso dire che qua è perfetto. 9 più 10, sì, radio 5. Volevo sentire Sanpei. Attento Sanpei di Sorso, vicino a Sennori. Sanpei, cazzo molto G. Ah, Sanpei, senza Durammo. Rubeccio ti sarà buttato? Rubeccio l'ha trainato, a che balena ci sarà buttato? Luca, così l'ho messo in quinta potenza, va meglio o è sempre compressa? Una sacca che caramella che c'è a radio. Prova Fra. Perché così... Guarda, ti è migliorato? 1, 2, 3, prova. Adesso sembra più tranquilla, la solita tua radio. Quindi adesso praticamente in quinta mi dà gli stessi watt che vedeva prima in sesta potenza, capito? Quindi sicuramente mi ha tirato su un po' i watt. Sicuramente sì. Sapi, bene mi ascolti a me a Sorso. Quapparoggio, forte e chiaro. Ah ok, vabbè, forte e chiasso. Caldarella è troppo lontano da noi, capito? Cioè io lo ascolto bene, ma da te è troppo lontano. Cioè sono 200 chilometri. Dimmi di fare un punteggio, di pulire l'antenna e l'altro punteggio. Punteggio troppo che capo io a te. Se magari ti indirò prima ti ficcio la radio e ti ragazzi gheggio. Oh, anche qui a Tresuraghet non è che arrivi molto bene, cosa come si chiama, Caldarella. Vero, Binario, non ti arrivo bene. Basso ti sono arrivato. No, quello di Sorso, come si chiama? Ah, Sanpei, no, Caldarella sono io, lui è Sanpei. Ah, mi sono confuso, scusa. Sanpei, anche qua non arrivi molto bene qua a Tresuraghet. Va bene, allora, vuol dire che già funziona bene tutto, anche se magari il tempo è un po' opaco qua oggi, però del resto già va bene. L'amico di Chiaramonti, ma che è quello che va all'officina, sono io, mi senti, mi accoppi, cambio. Guarda, già ti ascolto, ti ho detto che ti sento lontano, perché sei lontano, però già ti sento. Noi avevamo venduto una macchina a Chiaramonti, una Civica nera. Ah, tu sei chi c'è di sta macchina? Guarda, oggi, io sono Sampiglia, Megan Coach. La Megan Coach, infatti chi ce l'ha comparata? C'è tutto giù dal muro, chi era Coach? Ce l'ho sempre visto, carino, ce l'ho da 18 anni, adesso è Maxi, l'ho fatta Maxi, tutta allargata con del verde. Maturizzata, amico. Ah, glielo prego, ma chi c'ha verde rame, la doia è? Va giù pure da 120 getti con i cerchi dorati, primo tipo, che farà tutti il ferro. sto gareggia è tutta sprint qui. Sono ma tutte belle macchine, dai. Sì, sono tutte parti collegate. Faccio fessetti, macchine, fuori strada, comune, cosa hanno fatto? Tu che tu fermo, Qui un fuori strada già mi serve, che fuori strada c'hai? Ma non lo do, c'ho un Freelander Sport, c'ho seconda versione, con le pedane, circhi da 18, cambio automatico, bella. No, io parlo proprio fuori strada, non su uno, che abbia le ridotte mie, alto la terra. Io, per fuori strada intendo quelli io. No, allora no, a te ti serve un Terrano, una di quelle macchine Toyota. No, io c'ho un Land Rover Freelander, il primo tipo, però quello fase 2, col motore BMW TD4. Quelli sono i motori migliori, hanno migliorato. Sì, già lo conosco, c'era anche un altro mio collega, sempre di Sorso. Io lo usavo per scendere in campagna nell'Olivetto, mi giravo tutto l'Olivetto perché il 127 mi arrenavo là. In Megane ne trattavo rubare a Urti da Ganazzi perché è fatta tuning, bella con i cerchi da 17 e niente. E quindi mi avevo obbligato fuori strada a Burba Campagna. Cos'è? 5 porte? Sì, AKK. No, va bene, dai. Guarda se c'è... chi ci è rimasto? Luca, ci sei? Sono qua. Non per molto, che tra poco vado a Nanna e mi devo alzare alle 3 per andare a lavoro. E cosa dipende? Lo puoi dire? Certo, ho visto un panificio. Quindi, insomma, le ore è un po' tarde, fai? No, entro le 5:20, alle 9 e mezzo ho finito. Ah, capito, quindi già... certo puoi dormire, tranquillamente. Sì, tra un po', dai. Allora fai... Avanti, Gagliarella! Faccine salate anche, panettiere che ti fai? No, sono autista, consegno il pane. Che bello il profumo del pane, cazzo. Non so se sia come quello di una volta, boh. Ehi, il profumo è bello, il pane è tutto. Capito. Champagne, quella macchina mia. Il motore Cervantino, che c'era uguale. Gappa, vabbè. No. Guarda quelli vuoi strada. Perché la quarta volta se ci vuoi strada, io ancora vuoi strada. Cazzo lì mi gioco di umido, ha fatto fuori strada 4x4. 16 km in campagna ha fatto praticamente. Ah, sta diventando poco di arrivare, di tutto ho preso fra, tutto. Anche la multi si è passata a raggiare l'erba. Qualche mola di natura non aiuta. Ehi, mi sono avvicinato proprio, tutta la gioca è nata lo gabbo. Quanto è Champagne, l'uomo del pesce. Eia, Felipe, stavo dicendo, ma pure un donno con un gugone, vedi, e focaccine salate. Raga, per il vela, tutto fatto per il vela. Con la marmellata ti fate con bar. O magari c'era qualcuno sopra. Ma hai diminuito il segnale, Sampi? Sì, ho abbassato la stufa che sennò era bordello. Sono un po' di belle. Via, butti figa che non ci arrivi. Sono un po' quel guy movi. Non ci arrivo così. Ti sento malapena, capito? Anche io se sgancio non mi senti più, mi attacca tutto. Affermativo, oggi sono di nuovo in linea. Così migliore, c'è di segnale che di radio. Ma sei un vecchio CB? K Roger, c'ho un Midland 68. No, non l'apparecchio. Tu modulavi tanti anni fa? Sì, mi chiamavo Piedi di Piombo. E c'era povero Pietro Braccio di Ferro, Falco Nero, poi c'era Aquila Rossa, poi c'era Albatros di Porto Torre, e Giuvenera ieri. Braccio di Ferro me lo ricordo, Bonaime, fratello di Giuseppe. Gappa. Gente in gamba, che miseria. La vita è una carogna, la vita purtroppo come la vecchiaia. Ma la più forte di Giorgio, carina, Falconero era la più forte di Giorgio. Ah, non è te. Champé, come ti cazzo di chiami? Me l'hai più forte di ciò, ciò che era. Ma ha bruciato tutto. No, è tutto attaccato. Ti ha chiesto chi era lo più forte di Giusso, Falco Nero? Non lo so se era Falco Nero o se era un altro che lo chiamava con un altro nome, perché Falco Nero era, insomma, che faceva parte della Cavalieri di Malta nella Scisom, se è lui. Ehi, cavaliere, c'è sta cavallo, io lo conosco, Antonio Falconero, non ti preoccupare, ma lo più forte era Antonio Falconero o Cocio o Vannino Brantera. Sì, gappa, già deve essere lui. E poi c'è anche Franco, che non lo so come lo chiamano a nome nativo. Franco Cerra Oscar. E cosa ancora c'è, come si chiama? Crazy Horse, come si chiamava? Non mi ricordo il nome. Cavallo pazzo. Ah, non lo so, l'altro giorno c'era uno che si chiamava Gianfranco la Cimia, a meno che se ne disse. Ah, mi dicono qua che si chiamava Fabio Cavallo Pazzo, Crazy Horse. Modulava con una Fiat 500, c'aveva con un'antenna, una Colibri, mi ricordo. Già ho capito che sta dicendo, la 500 ce l'ha sempre, mi sembra che è nera, modello vecchio, però non lo so se ne ha baracchino, se ce l'ha ancora. Io l'ho tolto dall'armadio un paio di mesi fa, anzi un annetto fa, e quindi l'ho attaccato tutto, perché non sa più cosa fa. Aspetta, ma tu lo sai chi era il più forte di Sorso o Ciampi? Era Giuseppino Trattore, attenamente a Giuseppino Trattore, ma non mi sente a me. A volte non ti sento. Perché sono piccolo, io sono caduto in basso. Se mi metto a 40 anni, lo dovrei controllare, dovrei Pisa. Ti ho detto, se hai conosciuto a Giuseppino Trattore, mi dirò tu fra. Non lo so, magari di vista Jimmy, magari a livello di voce verticale non l'ho conosciuto, ma a livello di gozzo sì, magari, già ho capito che stai dicendo. Giuseppino Trattore parlava lì, da via Roma, al Gompregio, di fronte al comune, quando parlava, da casa sua, scintillava la voce all'ingresso di Bottudora. Non lo so perché ce n'erano me all'epoca di Sorso, e ora non ce ne sono tanti, là. Già ci sono, ma magari restano in ascolto. Non ci sono più, Giuseppino non c'è più, c'era anche il fratello che modulava la Sennori, poi c'era Mario Persico, e a me da io sono entrato nel 1974, hai capito? 1974, e quelli di Sorso li ho conosciuti tutti, dall'A alla Z. Mi dicono qua, anche un certo Bagella, sai che ti dice Claudio? Certo, le c'era. Qui erano tutti i vecchi, tutti gli anziani, tutti. C'era Mario Polo che parlava, c'era Cocio, come si chiama, quello che poi è andato a trasmettere a Radio Nova, finire a poco di niente a Sosso. Allora, tra poco Torres e Sosso c'era un sacco di CB, compresi anche quelli Sassi, ma ti sto parlando degli anni 80, capito? Lui forse non li ha conosciuti, ma io tutti quelli che hanno parlato da Sorso e che ancora qualcuno c'è, e li ho conosciuti tutti. Mi ricordo, Trattore me lo ricordo, vedi? Bagella già lo so chi era. E chi era? Non so se era lo so, chi si va via la frutta, dai, va a fare lo furano, c'era lì su, io lo conosco. Qua mi dicono che era gente, che c'era gente benestante, mi. Gappa, se poi avevano fatto il parco acquatico e poi l'hanno venduto, mi sa. Già è quello allora. C'è quello che poi ha comprato il parco acquatico lì, la vicina di Giusso, già è quello lì, ma comunque c'era anche Cosio, come si chiama, che c'era il negozio lì di ferramenta, che poi è diventato un radioamatore, c'è Vannino, vabbè che radioamatore, lo stesso, ma ce n'era un sacco di gente a Sorso che parlava negli anni che facciamo il tratto io, poi non lo so che la fine di fatto. Immagino che ci va bene. Guarda, io da socio li sentivo tutti bene. C'era Mario Persico che arrivava a Sassari, che era una schioppettata. Senza parlare Giuseppino Trattore, senza parlare, vabbè, Fannino è sempre uscito fortissimo, Franco lo stesso, poi Bergonzi, poi ti posso dire, boom, ce n'è un sacco comunque, senza considerare, vabbè, Pietro, Braccio di Ferro, senza considerare Antonio, Falconero, senza considerare tutti gli altri, ma comunque ce n'era un bel di gente che arrivava a Sassari molto molto forte. Io quando abitavo in campagna, quindi ero in una posizione favorevole, quindi arrivavano tutti forti, da Porto Torre, da Sassari e da Sorso, anche al Ghero arrivavo bene. Qua vabbè, non è sul tetto l'antenna, quindi sono negativo sia per Sorso che per Alghero. E figurati qua, fra, che c'è un'antenna in giardino che non mi serve a me per la 27, io sto entrando così per fare due chiacchiere, ma io l'antenna che ho è per i 10 metri, capito? Se la metto sul tetto a Sorso lo vedo, ce l'ho davanti, però l'antenna è bassa, 2 metri a terra nel giardino, capito? Quindi non me ne affutti nulla. Però arrivo a Sassari, mi sentono un po' da tutte le parti, evidentemente Sampei è zona negativa per me. Vabbè, va bene, dai, che sono le 8:15, io vi saluto, ciao Sampei, se mi senti, se no salutalo tu, fra, ciao Lugariello, saluti a casa, fra, dai, vado a cenare che è tardi, ciao a tutti. E anche qua mi sembra che ci siamo, dai, allora, ricambiamo i saluti anche dalla signora. A tutti voi un abbraccio, stammi bene, riprendi Sampei per i saluti. Gaffa, salutoni a tutti, all'amico e anche io stacco, perché così tu mi hai fatto fare una terapia, devo fare. Ben sentiti, mi ha fatto piacere, ci magari sentiamo alle prossime. Ciao. Ok, dai, qua anche qui Radio Binario, Freccia Rossa ti saluta e ti cordializza. 7351, a te e alla tua famiglia, fatti sentire su questo canale, cerchiamo di ristabilire un po' questa frequenza, dai. Un abbraccio, Luca, ci sei? Per i saluti? Sì, dai, buonanotte a tutti, dai, ciao Claudio, Sampei, ciao Frac, spengo, vado a dormire, sono già le 8:20, e a me io chiudo gli occhi, subito alle 3 sono. Passa in fretta al tempo, dai, buon tutto, buonanotte, buon trabacco per domani, buon tutto, dai, ciao, alle prossime. Ciao a tutti. CQ canale 10, CQ10, CQ10, capita, o ce l'avevi impostato per altri modi di emissione o per altre bande. Perché io poi passavo sul 10, c'era la ruota e sentivo tutti bene, roba, hai capito? Ma adesso è tutto a posto. Vabbè, questa è un'altra radio, dopo passo con l'altra. Come mi ascolti questa? Eccellente, prova un po' l'altra. Aspetta, le passo all'altra un attimino. Ok. Eccomi qua, ci sei? Ci siamo? Sì, adesso ci siamo. Dimmi cos'è toccato esattamente. Poteva essere anche il Mickey Gain. Troppo manetta, magari regolato per la banda laterale, non lo so. Guarda, sto pensando, quello che regola la potenza, probabilmente era quello lì, stava saturando, non lo so. Sì, guarda, l'effetto era splatter, provavo a mettere allo zero finale, no, 27.100, niente, 110, niente, canale a fianco, niente, tutte e due, nulla. Ma Roberto, che era d'Alghero, ti copiava o no? In AM sto parlando, Non lo so, non abbiamo provato con lui, abbiamo provato in banda laterale. Dimmi un po', differenza noti tra questa radio e l'altra? Robè, non ho l'orecchio allenato, non a tal punto. Dovresti rifare il passaggio, io lascio il volume regolato così, vediamo. Allora, questa è una radio, 1, 2, 3, prova radio, adesso passo all'altra. E questa è l'altra, 27.075, è un'altra radio con lo stesso microfono però. Allora, questa la sento più carica di bassi, più carica di bassi, e magari preferivo l'altra, così orecchiometro, non mi piacciono troppo i bassi, gusto personale, ma c'è un altro parlantino largo due dita, robe, magari in altri apparati preferiscono l'altra. Vabbè, quell'altra che ho parlato poco fa è più adatta per la M, questa è fatta per altri scopi. C'è un equalizzatore all'interno che si può regolare, è stato regolato per andare in altre bande, in altri tipi di frequenze, per cui magari in AM qua non è ottimizzato al meglio. K. Ah sì, invece in banda laterale ti copiavo bene, vedi? Non ho dovuto nemmeno toccare il clarifier, era in posizione proprio dritta, centrale, e ti ascoltavo centrato. Per Gabino dovevo andare indietro di un quarto di giro quasi. Vabbè, da quella radio che ha sistemato, scusa, ha spostato di 50 kHz. Ma questa è stata allineata, era già a posto, però l'avevo mandata quando l'anno scorso l'avevo spedita a coso a Graziano Braga, poverino, è morto, grande tecnico, super conosciuto, molto modesto, umile, eccetera. Purtroppo è andato a miglior vita, come si suol dire, e me l'ha controllato lui, ha detto aveva fatto l'aggiornamento, eccetera, però mi ha detto la radio era tutto a posto. Sì, ma Roberto di Alghero, io lo copiavo in banda laterale, un po' bassino la verità, tipo Santiago 3, cioè con un QRM a 2, lui arrivava a 3, forse anche 3,5, ma bassino. Ma che Roberto è? Roberto ex CB radiatore Tex, per dirla tutta? Non lo so che nominativo c'ha, io non l'avevo mai sentito, lo conosco come radioamatore a Roberto, perché non è neanche di Sassa, lui era di Cagliari, dalla zona di Cagliari, anche se ha vissuto sempre fuori a Torino. Non lo so, sinceramente, se avesse qualche nominativo. Se sono io qua a Sassa, è venuto di passaggio per questioni di movimento, perché lui lavorava a Cagliari per tanti anni, poi è salito su a Torino, lui la sua residenza, infatti il suo nominativo è la zona di Torino, di Giano, in Piemonte. Ah no, allora mi sa che non è lui, sarà un altro. Perché c'era un Roberto che modulava l'Alghero, nominativo Tex, poi era diventato radioamatore, però modulava già da Alghero, capito? Da tanto. Va bene, quindi tutto risolto. Sì, vabbè, mi stavo preoccupando, ho toccato, adesso ci manca solo se facci quella radio lì, ce l'ho tanti anni, è un gioiellino, ma ho sempre andato con quella là. Questa adesso me la sto provando così, perché io prevalentemente uso questa, tutti i lavori, i collegamenti li faccio con questa, anche se ho altre tipologie di radio, però questo è un quadribanda. La volevo provare in FM ieri, ho fatto una prova e poi Roberto purtroppo non mi ascoltava neanche a 525, la nostra frequenza monitor, e qua Alghero mi arriva sparato, ce l'ho di fronte, non mi sentiva il ponte di Vittiri, l'R7 Alfa arriva a 960 qua a fondo scala, e a lui arrivava a 9, 9, 10, infatti tu c'è qualche problema, c'aveva un'antenna magnetica attaccata ad avanzare, ho detto non è possibile, io quelli di Alghero anche con il portatilino dentro il porto ci parlo tranquillamente, lui era dentro casa, ho detto secondo me con l'antenna non stai radiando, perché nulla, non riuscivo a sentire, lui tra l'altro lui era con una radio niente di particolare, ma io stavo uscendo con 50 watt, con la X510, un'antenna di 5 metri di altezza. Ah ecco, cioè su ponte vi sentivate ma in diretta no, e magari hai beccato il punto di zona d'ombra rispetto a lui, mentre lui magari dallo stesso medesimo punto agganciava il ponte, così è. Non so che dirti, anche lui è rimasto stupito, ci parlavamo tutti i giorni col portatilino dentro casa, adesso ha messo questa magnetica, secondo me gli ho detto questa magnetica non sta funzionando, ma il rosso è nullo, non ne ho, ma non c'entra niente, l'antenna non sta irradiando, se non ha un piano di massa, l'ha messa su da avanzare, magari c'era della ruggine, non faceva ben contatto, non lo so per quale motivo, non è possibile che io Alghero non l'ascolti, arrivano minimo 9, 9,20 qua, ma proprio quando sono dentro il porto, c'ho la posizione, io lo vedo a vista Alghero, non ho nessun problema, vedo il fallo di capocaccia assolutamente la notte quando c'è visibilità, naturalmente se c'è fuschia non lo vedo, si vede perfettamente. Vabbè, qua ma lei. Mi Giovanni Attino, mi è bene? Sì, tuo Giovannino sono. Mi Marizzino, ciao Fla, ti sto ascoltando con l'altra radio ormai, anche l'altro giorno hanno parlato uno, ho detto, mi sono confuso, ciao Claudio. No, mi ha fatto suonare prima Marco, un'oretta fa, mi ha detto, ti sento un po' di sblatter, che strano, col 44, e invece ero regolato in banda laterale, cioè avevo tutto saturo, per quello mi sentivo male, ma adesso ho fatto la prova e mi sono accorto c'erano i problemi sulle regolazioni. Questo è Claudio, TS2000. Ah, va bene, già va bene. C'è Marco Condoro. Caldarella. Cuocuomane. Già state entrando, spero, sì, tenetelo a galla questo canale perché io poca voglia ne ho. E così, dai. Ho sentito che stavate parlando con... come si chiama? Sanpei. Allora, lui c'è un problema con la radio. Lui arriva bene ma riceve tutti bassi. Però l'ha detto, c'ha un Alan 68 del 1983, massimo 85, cioè è un residuato bellico, magari c'è qualcosa dentro che è andato male in ricezione, non ha ricezione lui, riceve tutti i bassi. Come lo posso scolare, no? Cioè arrivo da Franco, a Soso, benissimo, arrivo da Gavino, benissimo, e lui non mi riceve, io non è che mi posso ammazzare, no? Io queste sono le mie condizioni. Non è che posso mettere amplificatori per farmi sentire, lui qua arriva a 8, quando attacca arriva a 8, da 5 a 8 passa, quindi per me va benissimo, lo sento chiarissimo, non c'è problema, ma lui non sente cosa devo fare io, basta comprarci una radio, mettere i cristiani. Vabbè, quindi, Marco, noi stiamo entrando, io soprattutto sto entrando un po' più del normale, però qualcuno che si è lamentato non si è più sentito, tipo Giulio Lollaro, no? Giulio mi ha detto entra, aspettiamo qui, là, cazzo, non l'ho più sentito, è un mese che non lo sento. È vero, neanche io non lo sento l'apparecchio, ma d'altronde io sto entrando poco. Giusto Roberto, un controllo poco fa che voleva contattare uno di Alghero in 27, però era Roberto era di Splatter, probabilmente era scappato o qualche carrier o qualche Mickey Gain eccetera, poi ha risolto. Sì, comunque il problema appunto non è il tuo, il problema è di Sanpei, a parte che ieri è entrato con un altro nominativo, Sandokan mi pare, no, pirata, ieri era pirata, oggi era Sanpei, e il problema era lo stesso, dice mi sento tutti bassi, e noi anche con più watt del dovuto si sentiva bassi, quindi il problema è del suo apparato, questo l'ho detto, un Alan 68 dell'83 magari... anzi non magari, sicuramente dentro è partito qualcosa di ricezione, è da ritarare quell'apparato, qualche condensatore fumato, cosa ne so, vecchio, no? Vetusto. Sicuramente non è un problema suo, perché io la ricezione ce l'ho, ti ripeto, a me Soso mi arriva 9, Franco mi arriva 9, Gavino mi arriva 9, è proprio nella bassa valle della Budi, quindi mi arrivate tutti bene, Porto Torres mi arriva benissimo, Sassari non si discute, siete tutti 9 più 20, 9 più 30, quindi a me non me ne fate niente. Credo che devi accontrarci la radio, è inutile avere la trasmissione, non avere la ricezione. Vai Bobo. L'ho sentito anche io quel ragazzo ieri, quello che mi ha venduto la radio, mi fa, la radio che abbiamo visto, la 68, cioè, ma non va antenna, non so, la radio è morta, io l'ascoltavo 9, quasi 9,5, cioè scusa, quasi 9,10, superava il 9, tranquillamente, lui a me ascoltava 1,2, dice appena comprensibile, io l'ho detto, non è possibile che tu qua mi arrivi più di 9, e io con quell'altra radio che utilizzo, già lo sai, ne arrivavo 1,2, ho detto no, tu c'è qualche problema, gli altri mi arrivavano tutti 9,30, no? Coso, Gavino 9,10 da Coso, da giù, da già sai dove abita, anche Marco la stessa cosa, vabbè Marco arriva qua 9,50, non ne va, vedremo, quello di Antonio Bombolo arrivava 9,15, 9,20, poi quando attacca arriva 9,30, ho detto tu c'hai qualche problema, rampasi la radio, non lo so, perché la terra stava irradiando, arrivava, superava il 9, ma non riceveva, ho detto vedi un po' tu. Ma infatti è un problema suo, perché se io te lo rapporto di ricezione 5 liscio e 8 attaccato, e tu almeno 5, 6, 7 mi deve ricevere, non è che è un problema mio, anche perché io sto usando il K sempre con 30 watt di portante, 50 modulati, il cazzo vedi tu, non lo so io, è sempre così, l'ho sempre usato così il K, 30 watt di portante, 50 modulati, Marco mi arriva quasi 9 più 20, tu sei 9 più 30 ma sei più vicino, quindi penso che la ricezione ce l'abbiamo, così è Marco. Sì, già lo credo, poi io sto pompando, io provo almeno 50 watt di portante muta, 50, forse anche 60, dipende quanti watt sta dando per pilotare, perché non so se siano 2 o 3 di pilotaggio. Certo, se mi metto nudo e crudo arriverò sotto il 9, penso, dai. Va bene. Roberto, riprendi. Ehi, stavo ascoltando poco fa, cra. Noi l'MC60 lo mettiamo sempre a coso, a 500, non è così? No, Robby, a 50 va. A 50, 500 se lo tieni fisso in banda laterale, come c'ho l'altro io, no? Io ne ho una a 500 per la banda laterale, per smontare un po' meno gli acuti, ma per la 27 in AM lo tengo a 50. Scusa, ho sbagliato, diciamo, lo teniamo sempre a 50. Perché c'era qualcuno stava appuntigliando, no, mettiamolo appuntigliando, stavano parlando tra di loro, lo mettevano a 500, no, a 500 in banda laterale per smontare un po' gli acuti, perché a 50 ti dà più tonalità acuta, a 500 smorza un po' e va bene in banda laterale, ma in AM io da una vita, da 20 anni a questa parte che uso a 60, l'ho sempre usato a 50, capito, da un po' più di acuti. Allora Marco, tu sei attaccato 9,25, esatto, quando stacchi sei 9 più 10, quindi hai un ottimo segnale anche con poca potenza, perciò penso che dalla mia posizione i segnali siano reali, insomma. Sì, ma ti dirò che si è migliorato di segnale, perché quando avevi cambiato casa, no, le prime volte, adesso non mi ricordo che antenna stessi utilizzando, tu eri 9 o sotto il 9, eri poco poco sotto il 9, adesso sei, vabbè, con lo smitter a cristalli liquidi 9 più 10, non fa testo lo smitter di questo apparato, però è molto più alto di prima, che eri tipo 8, 8 e mezzo, 9, ma meno di 9 era, mi ricordo. Sì, ma inizialmente quando mi sono trasferito avevo appoggiato l'antenna proprio a un metro a terra, adesso sarà 3-4 metri, insomma piazzata bene, ma è sempre nel bordo del giardino, non è sul tetto. Se io dovessi mettere l'antenna sopra il tetto della casa, cazzo, allora sono dolori, perché allora l'antenna vera e Sassari, il segnale cambia tantissimo e irradia molto molto meglio, però io ce l'ho in basso per i 10 metri, capito, perché 10 metri questo tipo di antenna irradia molto molto bene, anche perché ho tutte le zavorre, sono fatta per i 10 metri, tant'è vero che vado con, adesso sto andando con 140 e la T250 inserito, stazionarie 1 e 1, ma c'è l'accordatore automatico inserito, capito? Mentre invece per i 28 non uso manco l'accordatore diretta, perché è accordata per 10 metri questa antenna, però va bene, insomma, per fare due chiacchiere va bene, ma ripeto, non arrivando lì da Sorso, da San Pei, è un problema suo, non è un problema mio, perché Sorso qua arriva 9 di segnale e 9 mi danno, non è un problema mio, capito? Sì, vabbè, vai benissimo, se stai andando col TS2000 vai benissimo. Adesso ho cambiato radio, questo è 4,40. Leggermente un po' più di acuti, ma non è che cambia niente, è vero Marco? Sì, prima abbiamo fatto la prova. A me piaceva un po' più questa, perché l'altra è più carica di bassi. La sento, quella precedente, molto carica di bassi, però è un gusto personale mio, magari a te piacciono più bassi. Poi io c'ho, te l'ho detto, come ha detto Roberto, c'ho un altoparlantino frontale che è largo due dita, quindi cioè, ci vorrebbe una colonnina esterna anche per apprezzare i bassi, capito? È anche bella grande. Sì, ma infatti anch'io Marco noto questa differenza, il 10.000 più tonalità medio bassa, mentre 4.40 tonalità più medio acuta, capito? Però diciamo che in linea di massima sono buone tutte e due, vabbè. Quello che voglio dire di intensità microfonica, ma parliamo di qualità, di intensità, questo è più alto o più basso? Perché qua il microfono io ce l'ho a 1. Va bene, diciamo che così non vedo tutta questa grande differenza, non lo so se Marco la nota col baracchino, io qua non la noto. Robè, allora, io tengo il volume abbastanza basso qua per non disturbare, no? Il volume di ricezione. Questa sembra leggermente più tranquilla, più da città, da dentro città. L'altra carica di bassi mi sembra un po' più prepotente, anche per parlare fuori città. Giudizio mio. Perché qua sono al minimo proprio di Mickey Game, un poco meno di uno, un peluzzino meno di uno. La distanza di parlate è uguale all'altro, sono circa 40 centimetri più o meno. È una radio completamente diversa, di vecchia generazione. Quell'altra c'aveva l'equalizzatore impostato sulle bande laterali. Allora Marco, questo è il 440, che differenza c'è tra me e lui di modulazione? Allora, la sua è molto tranquilla, è una modulazione tranquilla e rilassante, come, vabbè, in città io preferirei quella. La tua è bella amplificata, è da battaglia la tua, in poche parole. La sua è più tranquilla, da conversazione così, è dentro città, soprattutto quando sei un chilometro ma meno. Come vedi, vabbè, cioè stiamo usando le stesse radio, però diciamo sempre che la mia timbrica è quella a cariada, ma in linea di massima insomma è così, no? Non c'è niente da fare. Devo dire che questo, se hai cambiato radio, mi piace di più, Clara. Sì, questo è il 44, questo è il 440, sempre con i Meci 60, Michigan anche questa 1, poco più di 1, e l'impedenza è a 50K. Cap, aspetta, visto che c'è lui che sta ascoltando, il Claudio sicuramente è molto più forte di me, fammi più o meno lo stesso livello di radio, perché io sono a meno di uno, le parate che non disturbo, non saturo, così me lo tengo fisso, Marco. Ehi, a Claudio poi c'ha un po' di effetto stanza, è proprio potente come modulazione, prova a alzare piano piano, gradatamente, per raggiungere un volume simile, se vuoi. Allora, adesso sono a meno di uno, adesso è un pochettino più di uno, guarda se è cambiato qualcosa. Ha cambiato, sì, adesso è prepotente, Robè. Poi, ti ho detto, parere personale, io apprezzo più le modulazioni più tranquille, soprattutto quando sei molto vicino e dentro città, però credo che ci siamo. Ci vorrebbe un ulteriore orecchio, se c'è qualcuno sul canale che ascolta, per dare un parere suo. C'è qualcuno? Ma non c'è nessuno, Marco. Ma a me piace più così, Robè. Io l'avrei lasciata così. È più la tua solita modulazione, capito? Quella proprio del K, con appena appena un po' più di amplificazione. Magari sì, io c'ho un po' più l'effetto stanza, non lo so, però adesso ad esempio io ho abbassato a 1, ecco, 1, preciso, e penso che sia normale la modulazione, dai. Guardi, ho una curiosità, siccome io non mi sono mai ascoltato, provo a fare le due prove con l'impedenza diversa, voglio capire cosa cambia. Con l'impedenza diversa, cosa ridi, guarda, allora, questa è l'impedenza 1 e questa è l'impedenza 2, cosa ridi, impedenza 2, impedenza 1. Allora, l'impedenza 1 è molto più naturale. Te lo sto dicendo, io da 20 anni a questa parte che uso l'MC60 per la M ho sempre lasciato 50. No, migliora, è molto più chiara, più naturale, e in banda laterale probabilmente bisogna fare la prova con quell'altro sistema. Banda laterale secondo, insomma, siccome hai magari il Michigan eccetera, ma ce lasci il Michigan, io col 4,40, quando uso il 4,40 in 10 metri, no, 28 che sono in banda laterale, l'unica cosa che faccio per non spingere molto, per non essere troppo proprio spinta, non faccio altro che disinserire il processore, ma l'impedenza la lascio sempre uguale. Anche io non la tocco mai l'impedenza, la lascio così, ce li ho tutti, giù, ne ho 4 di MC60, già lo sai, un paio me li hai dati tu. Figurati, ne avevo 6, 2 li ho dati a te, 2 o 3, e 2 mi sono rimasti ancora, fate un conto, io ero carico di MC60 anche perché io come 10 metri e 27 ho sempre usato il K, quindi 4,40, 140, 4,30, capito? Perciò quelle radio io ce le ho, le tengo sempre, poi HF a livello amatoriale uso l'ICOM, tutto ICOM, capito? Però ti ripeto, per qua ho sempre usato questo tipo di radio perché mi soddisfa. Mi soddisfa come ricezione, come trasmissione, devi avere lineare, devi avere niente, c'è la potenza sua, quindi va bene così. Vai Marco. Insomma, io credo di essere l'unica pecora nera della 27 che non è rimasta contenta del K. Sarà la mia timida voce, cioè la voce di Claudio è adatta al K, la voce di Tino è adatta al K, la voce di Gavino è adatta al K, no? Massimiliano, ma se sul K si mette la voce di Topo Gigio, tipo la mia, non rendeva, non... perciò l'ho dato, non mi soddisfaceva più di tanto. Ci ho detto, l'unico impianto mio del K è lo smitter, almeno potevo dare controlli affidabili, ecco. Sì, ma gli unici che non avete mai avuto una buona modulazione con il K siete tu e Gianni, perché tutti quelli Tino, ma anche un po' Massimiliano, ma quelli che abbiamo sempre dato mattana al K siamo io e Tino, lavoriamo in Natalino. Capito, andava molto bene, ma anche Roberto esce molto bene col capo, una vita che lo usa, però gli altri non avete mai avuto soddisfazione, è un peccato perché sono delle radio intanto eccezionali che ti permettono di fare di tutto e di più e si adeguano alla timbrica di voce. Io non ho mai avuto, ma io ti ripeto, io a Sassari già dal 1987 ho iniziato a usare il K, il primo 430 l'ho usato io e Marco 131 a Sassari e sempre con l'MC60, quindi da quel lì che io uso il K, il 27, è difficile che io ho usato Baracchini, ma così per fare qualche prova, altrimenti no, ma tipo un Gianni che per 6-7 volte o quante volte l'ha comprato, se l'ha sempre venduto, non si è mai adeguato a quel tipo di radio, come te lo stesso, ma anche Massimiliano che l'ha avuto, li avete sempre dati perché o non vi sono piaciuti o le modulazioni non vanno, ma chi ce l'ha ancora oggi ed è piace modulare è perché si adegua alla modulazione, tutto qua. Ma sì, ci vuole una voce mascola, cioè uscivo bene, cioè, la voce era la mia, però amplificata e tutto, però non era una voce da K, capito? Vai Roberto. Ma che K c'avevi, te modella? Il 140, il più misero, tutto bello, funzionante quando vuoi, però non... per questo tutto grigio, triste, senza lucine, lucette, c'era questo smitter, Maria, l'umicino del cimitero, cioè, vabbè, è un gusto mio, dai, ormai ci ho fatto l'abitudine a questi baracchini tutti illuminati, con tutto retroilluminato, anche il microfono retroilluminato, capito? Guarda, io, mi ha dato Claudio, il primo, nel 2005, e da allora io ho solo utilizzato il K, ho tenuto un attimino per qualche mese il patch, che in modulazione era spettacolare col Tarne più 3, però in ricezione bigliava tutta la mondezza, era troppo, come si chiama, confusionario, dai, quando attaccava, parlava Claudio dovevo chiudere le freghe, se no saturava subito, proprio non riuscivo a sentire nessuno, però quando c'è una radio un po' più seria è tutta un'altra musica, meno problemi di disturbi naturalmente, se non sia scacciavittata, però una prima cosa, poi non c'è bisogno di dare tanta potenza, sempre 10-15 watt, poi con i picchi di modulazione ne dava 50-60. Io non ho mai usato né amplificatori, mai, un bel impianto d'antenna, a cavo buono, connettori buoni, sempre la Mantova montata a 2005 e sta sempre andando con l'antenna. E non mi posso lamentare. Di nuovo a te Claudio. Sì, sì, ma infatti no, non è che ci siano molti problemi, capito? Una volta che la radio è tarata e va bene, io ripeto, ho sempre usato il K, anche quando ero nell'altra casa, con 20-30 watt di portante, 50 modulati, come adesso, va bene. Va bene, ma ripeto, io scelgo tutte e due, ho la linea completa al 140 con la T250 di linea, il PS50, l'SP430, quella è la linea del 140 e poi c'ho il 440 normale che funziona benissimo come lo sto usando, però ripeto, è adeguata la mia modulazione, ma lo sapete, no? Lo sapete Marco che io ho sempre usato questo tipo di radio, però chiaramente bisogna che la radio anche, o il microfono stesso, non tanto la radio, sia compatibile anche con la modulazione, con la tua voce, altrimenti non fa. A me non piace la mia voce, io ogni tanto mi faccio registrare, tipo quando cambio radio, sì, la voce è fedele, cioè alla fine questa che sentite, soprattutto con questo apparato, è la stessa che senti verticale, però a me, riascoltandomi, non mi piace la mia voce, proprio la voce. Io se sentissi la mia voce in radio direi, ma chi è questo pirla, chi è questo pisquano? Ti prendo io, tieni presente che tutte le persone quando si riascoltano la voce non la identificano, la sentono molto nasina, diversa, perché l'orecchio, una cosa è ascoltare la voce di un altro, una cosa è quando stai parlando, la bocca c'è in radio in una direzione, le orecchie ce le ha attaccate alla testa, come tutte le persone, è molto diverso. Infatti gli speaker radiofonici usavano dei correttori, dei filtri per cercare di renderla più simile a come l'ascoltano loro, perché se io mi sento la voce mia sembra la voce di 20 anni prima, di quando posso per dire come mi sento io con l'orecchio, però poi ti registri e dici, questa sembra la voce di un ragazzino. Poi ci sono quelli che ce l'hanno bella corposa, Claudio poi dice, ciao, una voce come diceva Giulio, gli dai un corno di bue e quello parla anche col corno di bue. Una domanda Robè, perché tu nell'audio mi pare trafficassi, tu sei mai stato in una camera anecoica per sentire la tua voce? No, non ci sono mai entrato, però conosco gente che c'è entrata e ne ha preso uno shock, soprattutto quando sono quelle di un certo livello, perché ti senti il sangue che cammina dentro, il cuore, i battiti del cuore, non puoi starci più di 10 minuti, stai già soffrendo, vai, se vuoi ammazzare uno lo tieni un'ora in una camera anecoica e diventa pazzo. Sì, era una curiosità mia, sì, ho letto. Praticamente io come parlo sento la mia stessa voce, però lì la senti anche perché naso, gola, orecchie sono tutte collegate, poi anche per via ossea, no? Invece se entri in una camera anecoica senti, dovresti sentire esclusivamente la tua voce, è una cosa impressionante, c'è gente che è stata presa male, come hai detto tu, soprattutto se stai in silenzio, è una cosa allucinante, senti il flusso del sangue, senti il battito del cuore, ed è una cosa un po' alienante, così. No, ma era solo per sapere la voce tua, se l'avevi mai sentita in camera anecoica, tutto lì, per sapere come risultava. Io avevo letto una descrizione di come te la senti, no, in quella camera lì, però mi sono dimenticato quali erano le impressioni, ecco. C'è ancora Claudio, no, sono cose, io sono entrato in studio di registrazione trattati, ma no, una camera anecoica non c'è riflessione di segnale, non c'è niente, è tutta una cosa, come che ti chiudono dentro una tomba, cacchio, non senti niente, vai Claudio. No, non conosco questo tipo di cosa, però immagino insomma che, no Marco, io a volte per fare delle prove vado col Moni dell'ICOM, naturalmente non questo, perché questo non è a Moni, e in cuffia sento la mia voce, ti dico che è abbastanza compatta, è abbastanza con le tonalità giuste insomma che piacciono a me, ecco, non è che, tieni conto che da un po' di tempo a questa parte le corde vocali Italia non c'è tutto tantissimo, sono molto molto più bravo che, ma anche perché ho avuto un sacco di problemi eccetera, ma come ben ricordi negli anni che furono la modulazione era molto più alta, più bella, insomma, più, però anche adesso non mi posso lamentare, dai, già va bene. E passano gli anni, Claudio, già lo grido, io ero rientrato nel 2010, siamo al 2025, a voglia se passa il tempo, ma tu fumi anche? Non tanto, non sono un fumatore accanito, fumo le mie 7-8 sigarette al giorno, niente di che, ma è proprio un problema di... così, ho notato, ho capito, ho notato che la voce sta iniziando a calare, ma tante cose, non è quello il problema, non è quello il problema. Tieni conto che io da quando mi sono trasferito qua, forse il primo anno ho modulato un pochino, poi per tutti gli altri anni io nel 27 non sono più entrato, anche perché avevo tolto l'antenna, avevo fatto altre cose, poi l'ho rimessa per i 10 metri, ho iniziato a sentirvi di nuovo, anche se non entravo, poi insomma qualcuno mi ha detto dai entra, tu che porti un po' di gente, quella infatti è vero, perché sta entrando un po' più Roberto, è entrato Gianfranco l'altro giorno, Fabrizio, insomma già iniziano a entrare 3-4 radioamatori che hanno abbandonato un po' la 27, fai numero, più i CB che ci sono, insomma qualcosa si sta muovendo, giusto per non abbandonare del tutto, ma cazzo, cioè non si sente più nessuno in questo canale 10. Sai cos'è, a dirla tutta, a me aveva molto demoralizzato la dipartita di Natalino e di come è avvenuta la dipartita, mi ha proprio preso male, da allora un po' sta entrando poco e niente, vabbè. E l'altro giorno è entrato, dopo tanto, non sentivo da almeno un anno, notava cosa, Luigi Vulcano, deve tenere sempre un po' al minimo, perché se non sai rientra nell'amplificazione del negozio, sai, l'impianto della musica o degli annunci delle casse, capito? Quindi devi stare sempre al minimo sindacale. Vai Roberto. Sì, a Gigino già sono un anno, non lo so, sarà almeno 5-6 anni, anche di più, che non l'ho più sentito. Ma tanta gente che entrava frequentemente, non ho sentito. Questo fatto della musica, che strano, questo fatto di Vulcano, sempre ce l'ha avuto il problema, non ho mai capito per quale problema, se non c'ha qualche cavo sbucciacchiato, loro magari hanno qualche cavo che passa vicino all'antenna, cosa ne so, perché è matematicamente impossibile, anche in terza, quarta armonica, come fai a entrare nel cittufole? Ma io, Robby, per un periodo che quando avevo l'Omega Force, il Magnum, che buttava spuri, armoniche a non fine, poi usciva fortissimo, era come in un Alan 48, qua vicino mi sentivano nelle casse le casse del computer, sai quelle casse esterne amplificate, si sentiva chiara la mia voce, però lì era questione di apparato, quello non lo puoi usare a casa, il Magnum Omega Force lo puoi usare in macchina, ma a casa è di spuri armoniche terrificante, proprio un apparato che disturba, infatti poi l'avevo venduto. Vabbè, non bisogna manometterli gli apparati, bisogna lasciarli puliti e basta. E per quello io dico molte volte, è meglio avere uno di questi HF che ti tirano 30-40 watt, però puliti, seconda armonica attenuata magari 70 dB, le spurie quasi inesistenti, poi prendo un AN48 con 5 watt e spara da tutte le parti, quando li metti i demulatori, tripromodulatore, effetto elicottero, eccetera, eccetera. Hanno solo problemi, perché poi per avere qualche mezzo watt in più mandano in situazione di saturazione qualche circuito e di lì nascono i problemi. No, io grazie a Dio mi posso vantare di quello, mai nessuno mi ha cercato, le antenne mie che alimentano casa mia, che sono attaccate a mezzo metro dal palo dell'antenna, non hanno mai avuto nessun problema. A Platamona devo dire il contrario, c'avevo una mini Grand Prix, quando schiacciavo quella disturbava tutto, però erano altri tempi, ma con queste radio qui non ho mai avuto, ma neanche col patch non ho mai avuto nessun problema, e non credo neanche Claudio, che lui era molto in alto, e dico molte volte qualche vattina in più glielo dava, avanti qua. Certo, qualche vattina in più, io uscivo col TL922 e 27 negli anni 90, nessuno mi ha mai rotto le balle, perché ero talmente alto, antenne non ne avevo, che potevo disturbare, ma il condominio col centralizzato non l'ho mai rotto le balle, capito? È un problema lì, non capisco, ma infatti con Gigi ne avevo parlato, il problema perché lui non entra molto frequente è proprio quello, perché non lui va di disturbare il supermercato, ma dice, non è che io posso entrare la sera quando il supermercato chiude alle 8:30, io sto cenando, poi non ne faccio più, ma la radio mi piace farla di giorno, e di giorno il supermercato è aperto dalle 8 del mattino alle 8:30 di sera, alle 9 di sera, la radio è continuato, quindi rivolgiamo a vedere. E così, e vabbè, dai, ok. Bene ragazzi, sono le 9:12:13, dai, io spengo tutto, vado a vedermi un po' di TV. Ciao Marco, ciao Roberto, grazie delle due chiacchiere, entrate più spesso e saluto anche tutti quelli che sono all'ascolto. Per me è QRT, a domani, vai Marco. Via. Ciao Claudio, ben sentito dopo tanto, magari ogni tanto di passaggio sentivo qualcosa, però magari avevo da fare in casa e non entravo. E sentiamo quando capita, insomma, voglia permettendo, dai, già a quanto ho capito state tenendo a galla il canale, è entrato anche Carlo che ha cambiato casa. Ed è, guarda, 50 metri da me, sai cosa vuol dire 50 metri? Cioè, non vicino come Roberto, come attaccato, infatti, senza lui dobbiamo stare sullo stesso canale, se no è problematico. E pensa che c'è ancora l'antennino, l'antennino mi pare sul balcone, pensa se mette l'antenna su. Infatti speriamo che con molto tatto gliela facciamo mettere, dai. Ok, saluto anche Roberto, io adesso devo cenare però più tardi perché ho pranzato tardi e cenerò più tardi. Mi accendo un po' di TV, mi scelgo un film mio e passo la serata. Dai. Signori, è stato un piacere sentirvi. Vai Roberto per i saluti e buona serata a tutti, dai. Ciao Claudio, noi ci sentiamo domani, ciao Marco, chiunque fosse qua in ascolto al canale 10. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte, ciao.